effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire! E allora ciao e bentrovati e bentrovate a tutti i nostri amici e amiche, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat, che si trovano, come sempre succede, il lunedì alle 15.30 incappati nella diretta della stampa rassegnata, trasmissione di Radio Wombat che dall'inizio del 2018 si è ripromessa di analizzare, dare un'occhiata, uno sguardo critico e decostruttivo alla stampa locale, rassegnata come provocazione per dire rassegnata a cosa se non ai poteri forti che della stampa mainstream dirigono e muovono i fili. In questa trasmissione, per chi non l'avesse mai sentita e si fosse collegato solo in questo momento, ci occupiamo un po' di tutto quello che accade dando un occhio ai giornali della cronaca locale, con particolare riferimento alle due vicende che animano ormai da tempo il movimento e i nostri territori, che sono l'opposizione popolare all'inceneritore di Case Passerini Firenze e alla vicenda della costruzione, ampliamento, ma è più corretto dire costruzione, del nuovo aeroporto di Firenze Peretola. Nello stesso tempo guardiamo un po' tutto quello che ci sembra interessante e sul quale abbiamo e ci sentiamo di avere qualcosa da dire di non necessariamente banale. Ci muoviamo, come sempre diciamo, con una settimana di ritardo rispetto a quello che è successo, settimana che ci serve per ordinare un po' le idee, raccogliere del materiale, eventualmente fare delle piccole ricerche per allargare lo sguardo su quella che è la cronaca locale e tentare un esercizio dialettico di passare dal particolare al generale, laddove è possibile. Con la puntata di oggi ci muoveremo più o meno tra accadimenti che hanno avuto uno spazio giornalistico nella cronaca locale tra il 25 di giugno e l'inizio di luglio, quindi tra il lunedì 25 e la domenica 1 luglio. Proprio come altre volte già mi è successo, per smentire quello che ho appena detto, ma per diciamo in qualche modo sostanziare nello stesso tempo altre cose che ho nello stesso tempo detto, recupero una notizia che in realtà è precedente al periodo di cui ho esposto, una notizia che ci è tra virgolette avanzata alle precedenti puntate, che abbiamo sempre un sacco di cose di cui parlare e molte cose da dire, notizia che ci è avanzata e che è apparsa sui giornali il 12 di giugno del, appunto, ovviamente del 2018, la notizia che riguarda l'assoluzione la chiusura dell'indagine sulla vicenda del Lungarno Torrigiani. Stiamo parlando del, appunto, di quel disastro, perché non è un termine direi eccessivo per descrivere quello che accadde nel 2016, in cui appunto nel maggio del 2016 vedemmo il crollo del Lungarno Torrigiani per cause che apparentemente sembravano ignote e che poi invece con molta chiarezza ed evidenza sono state ricondotte ad una perdita di un tubo dell'acqua di Publiacqua. Si ricorderà chi forse ha seguito allora in quei giorni, ovviamente subito a caldo rispetto alle immagini e alla notizia che non poteva non avere un risalto abbastanza forte, anche con una certa spettacolarizzazione delle immagini, perché indubbiamente era di impatto vedere tutta la linea delle macchine parcheggiate che era caduta, sprofondata di qualche metro sotto il livello del terreno per questa frana che quindi aveva reso il terreno particolarmente friabile, quindi insomma sotto il peso delle macchine parcheggiate sul Lungarno Torreggiani erano proprio sprofondate. Per chi non lo avesse visto o non lo ricordasse, gli basta digitare Lungarno Torreggiani su un qualunque motore di ricerca e di sicuro le foto di quel periodo, di quei momenti, sono sicuramente tra i primi risultati che ogni motore di ricerca vi darebbe. Beh, che cosa accadde? Chiaramente si aprirono delle indagini sulle responsabilità dell'accaduto e abbiamo assistito al classico balletto, diciamo, che avviene in queste situazioni. Sulle prime, l'azienda che gestisce l'acquedotto, quindi Publiacqua, disse che le responsabilità del crollo erano da imputarsi a una archeo frana, che in qualche modo una voragine che si era aperta a seguito di problematiche relative allo stato del terreno e non riconducibili a responsabilità particolari, ed invece appunto lo svolgersi poi delle indagini ha ricacciato e rigettato questa ipotesi assolutamente strampalata, ma che tendeva a limitare e minimizzare le responsabilità dell'azienda che gestisce la distribuzione dell'acqua a Firenze, e per invece accettare quella che era una evidenza confermata anche da piccole così appunto evidenze, quali per esempio la crescita molto evidente di piante sulla spalletta del Lungarno proprio in corrispondenza di questa perdita dell'acquedotto. Questa, appunto, la crescita delle piante stava ovviamente a testimoniare la presenza di acqua che alimentava ovviamente la crescita di queste piante. Questa vicenda è durata, diciamo, a lungo e nello stesso tempo poco, nel senso che ovviamente trattandosi di uno spazio del centro fiorentino c'è stata una corsa fortissima e forsennata da parte dell'amministrazione comunale a ritappare il buco, chiudere l'accaduto, insomma, rimettere tutto com'era e in qualche modo per certi aspetti, anche se vogliamo, a migliorare, proprio per appunto chiudere la vicenda incresciosa. Uno spazio, tra l'altro, appunto una delle vedute, delle viste forse più belle di Firenze, perché dalla parte di Oltrarno, da quel tratto, siamo in corrispondenza della Biblioteca Nazionale, siamo a pochi passi poi dal Ponte Vecchio, dal Palazzo Pitti, quindi uno degli angoli di indiscutibile pregio paesaggistico, urbanistico e architettonico del centro di Firenze, quindi tutto l'interesse era a richiudere e a in qualche modo superare la magagna. Poi è durata il tempo di un non nulla dal punto di vista del danno, è durata di più come rincorsa e come anche trasformato, perlomeno il tentativo è stato anche da parte della Giunta Nardella di trasformarlo in uno dei tanti spot utili alla ricerca del consenso, cioè il tentativo di correre nel riparare i danni, e quindi quindi il tentativo di trasformare il danno in un momento di consenso attraverso la messa in moto di una macchina super efficiente nella riparazione del danno. Quindi questa idea che abbiamo visto più volte, questo dispositivo tentato di mettere più volte all'opera dell'efficienza nella risoluzione dei problemi, quindi la capacità di problem solving e quant'altro. Questo spot elettorale di fatto ai fini del consenso si trasforma e si chiude definitivamente con la assoluzione, il proscioglimento di tutti coloro che erano stati coinvolti nella vicenda e che sui quali erano in qualche modo state indicate delle responsabilità. Dice un articolo che recuperiamo tranquillamente dalla Nazione, per l'appunto del 12 di giugno, che dice: voragine sul Lungarno Torreggiani, archiviata l'inchiesta. Per il giudice, impossibile individuare le persone a cui addebitare eventuali responsabilità. Cioè, in sostanza, pur avendo respinto l'ipotesi di una voragine causata da problemi di tipo geologico del terreno, si ha però nello stesso tempo una situazione in cui, secondo le indagini condotte, secondo il giudice, non è possibile indicare dei veri e propri responsabili. Si chiude così l'ipotesi di responsabilità penale, ma lascia aperta la strada dei risarcimenti in sede civile. Per il risarcimento a chi ha subito dei danni. Furono molte, per esempio, le auto rimaste coinvolte nel crollo e gravemente danneggiate. Almeno una ventina di mezzi finirono nella voragine. Questo è sempre, diciamo, letto dall'articolo. Ovviamente la cosa ci sembra particolarmente rilevante e particolarmente inquietante come scenario, perché in qualche modo costituisce, come sempre accade in questi casi, un precedente. Cioè si sostiene una tesi che è quella del non si può ricondurre a delle responsabilità, e in fondo la vicenda si può tranquillamente chiudere semplicemente con il risarcimento dei danni, cioè chi si è trovato la macchina danneggiata per lo sprofondamento all'interno della voragine verrà risarcito. Nello stesso tempo il comune, come già detto e ricordato più volte, ha corso per riparare i danni, basta. E su questo accontentatevi. In sostanza, il rapporto tra amministratori, gestori di cosa pubblica e la società, diciamo che formalmente in nome della quale amministrano e gestiscono delle attività attraverso delle aziende pubbliche o partecipate dal pubblico, come è il caso di Publiacqua, si accontentino i cittadini e gli abitanti di Firenze di questo, del fatto che se c'è un danno noi ripariamo. Questo però non consola chi può guardare a quello che accade sull'acquedotto fiorentino con la possibilità oggettivamente riconosciuta che possa succedere nuovamente. Che possa succedere nuovamente perché fu riconosciuto già nel 2016 da parte appunto della stessa Publiacqua che l'acquedotto fiorentino ha delle tubature molto vecchie che andrebbero sostituite. Si sa che siamo circa a un 35-36% di perdite, di consumo attraverso perdite delle tubazioni, eppure sembra che non si possa mettere mano al rifacimento, all'ammodernamento o alla manutenzione dell'acquedotto con un argomento abbastanza risibile che è quello del non si può aumentare le bollette. Cioè, in sostanza, siccome non si possono, secondo loro, aumentare le bollette, che poi aumentano dall'altra parte per altri problemi ed altre ragioni, ovviamente non ultima la quota di profitto che la privatizzazione ha portato con sé, non si può ammodernare gli impianti, creando una situazione paradossale in cui quando succedono i danni si danno dei risarcimenti, però nessuno è responsabile, nello stesso tempo non si può modificare la rete idrica che, ridotta come è ridotta per la stessa ammissione di Publiacqua, potrebbe creare nuovamente altri danni. Questa situazione è direi assolutamente paradossale, ed è una situazione paradossale che gli abitanti e i cittadini di Firenze non solo subiscono, ma subiscono, diciamo, in maniera doppia, perché continuano a pagare, pagano per i danni avvenuti e pagano per l'incapacità di affrontare le situazioni presenti. Quindi in questo senso la notizia ci sembra rilevante, perché va a confermare o in qualche modo a rendere più esplicito, se ancora ce ne fosse bisogno, il fatto che esistono e se ne può e se ne deve assolutamente parlare in modo plateale e pubblico, pesi e misure diversi per reati e responsabilità diverse. Cioè, provate voi, possessori, proprietari di un appartamento, di una casa o di un qualunque terreno, a essere responsabili per un avvenimento in qualche modo lesivo dell'integrità fisica o materiale di qualche altra persona, non lo so, per esempio cade l'intonaco della vostra terrazza, del vostro balcone, sulla macchina di quello di sotto e vediamo cosa succede, non solo a livello del risarcimento, ma anche di responsabilità amministrative, legali ed eventualmente penali. Siamo assolutamente certi, ognuno di noi in cuor suo lo sa, che la situazione non sarebbe la stessa di quello che invece avviene per Publiacqua. Cioè, dire che la situazione è molto complessa, tanto complessa da non poter ricondurre a delle responsabilità, è un precedente di una certa gravità. Non tanto perché ci consolino le misure penali nei confronti di questo o quell'altro amministratore della cosa pubblica, ma perché la situazione di impunità oggettiva che sentenze come queste vanno a creare rende la situazione per chi si trova a gestire, ripeto, per conto della società, dei cittadini e degli abitanti di una città o di un territorio, alcune attività come per esempio la distribuzione dell'acqua, crea appunto una situazione paradossale e molto molto molto pericolosa. Situazione molto molto molto pericolosa che ci porta, come dire, a allargare il tema della illegalità dei grandi in una società in cui si fa sempre più continuamente, in cui si parla sempre più continuamente della illegalità dei piccoli, dei reati compiuti dai poveri, dei reati compiuti dagli stranieri o dei reati compiuti dalle minoranze etniche, e invece si nasconde, o laddove non si nasconde comunque si minimizzano quelle che sono le illegalità dei grandi, creando appunto in qualche modo andando a rinforzare un paradigma che è diventato ormai luogo comune, che con il quale si vorrebbero mandare assolti i grandi, siano essi magnati privati o dirigenti pubblici, e con il quale invece si vorrebbe consolare il popolo dando ogni tanto in pasto alla gogna qualche poveraccio che per la classica mela, o fosse anche per la borsa o per la macchina aperta per rubare una borsa, viene dato in pasto appunto alla, non solo ai media ma anche alla giustizia. A noi quest'idea di giustizia non consola affatto e continuiamo a credere che vadano indicate le responsabilità, responsabilità che ovviamente non sono tutte uguali, non sono le stesse, e i reati non hanno tutti la stessa gravità. Tra questi reati, proprio perché nella settimana precedente ci sono avanzate delle notizie e tra virgolette era una sorta di festeggiamento per i padroni, perché insieme all'assoluzione e all'archiviazione per questa vicenda del Lungarno Torregiani è arrivata anche poco più in là, ma comunque interessa le nostre cronache e le nostre discussioni, la chiusura o perlomeno il proscioglimento sulla vicenda di Vaglia dei rifiuti nella ex cava di Paterno. Dice un articolo che lo prendo da Firenze Today, tanto per leggerlo e dire qualcosa: Vaglia, rifiuti nella ex cava di Paterno, tutti prosciolti. Continua però il processo a Firenze sul traffico illecito di prodotti conciari. Praticamente, che era successo? Ormai sono passati degli anni, si era scoperta, scoperta a un certo punto, è venuta all'attenzione pubblica grazie al lavoro di comitati, associazioni e cittadini auto-organizzati, la situazione assolutamente sospettosa e pesantissima della ex cava di Paterno, nella quale sono stati infilati a forza, nascosti ma oltre un certo volume, non più nascondibile neanche agli occhi dei più sprovveduti e meno attenti passanti sulla strada, sacconi di ogni tipo. Sacconi che a forza e a furia di richieste, di solleciti da parte degli abitanti mugellani, sono stati piano piano poi aperti e sui quali sono state fatte delle indagini. Da una parte per capirne l'entità, dall'altra per in qualche modo ricondurli alla filiera che ce li ha fatti arrivare. Bene, un'altra piccola vittoria per i padroni e per le ecomafie, perché anche su questa vicenda si cala con questa archiviazione, con questo proscioglimento, un'altra piccola coltre di silenzio. Vanno prosciolti perché diciamo, leggendo dall'articolo, sembra che il Tribunale di Genova ha prosciolto i gestori della cava di Paterno nel comune di Vaglia, accusate di traffico di rifiuti, nell'inchiesta per cui gli accusati avrebbero nascosto sacconi di polverino 500 mesh provenienti da un impianto di recupero di rifiuti speciali nella ex cava di Vaglia. Questo è il fatto, quindi vanno prosciolti questi accusati per l'utilizzo della cava di Paterno come luogo di stoccaggio per sacconi di polverino 500 mesh. Polverino 500 mesh è il nome di ciò che era contenuto in questi grossi sacconi bianchi. Quindi sostanzialmente questo polverino 500 mesh non causa danni all'ambiente né alla salute, non è un rifiuto e non è pericoloso. Pertanto non deve preoccupare gli abitanti di Paterno, cioè della frazione del comune di Vaglia. Questo è sostanzialmente la motivazione per la quale sono stati prosciolti. Dall'altra parte invece, sempre dentro la cava di Paterno erano stati stipati anche altri tipi di rifiuti, soprattutto rifiuti provenienti dall'indotto delle concerie, quindi fanghi di conceria, ma anche scarti di salamoie della Solvay di Rosignano, rifiuti di demolizione, asfalto, plastiche e pneumatici. Ecco, per tutta questa categoria di rifiuti, anch'essi smaltiti abusivamente dentro la cava, invece prosegue un processo che viene svolto al Tribunale di Firenze e non di Genova, che ha un prossimo dibattimento fissato per l'8 marzo, festa della donna del 2019. Questo più o meno è il contesto. Insomma, anche se il processo su Firenze prosegue, c'è il proscioglimento sul polverino mesh 500, che ci sembra un fatto altrettanto grave, perché anche ammesso e non concesso, e quindi ammesso e non concesso, che il polverino mesh non sia un rifiuto pericoloso e non faccia male, questo non vuol dire che si possa prendere una ex cava e riempire di ogni tipo di rifiuto, anche se questi non fossero lesivi o immediatamente dannosi per la salute. Come ho già detto, ammesso e non concesso, perché il fatto che dei rifiuti in grossa quantità vengano stoccati in luoghi non idonei è tutto da dimostrare che non siano dannosi per la salute. Noi sappiamo per esperienza anche diretta e personale che se in casa ci avanza un pezzetto di carta catramata, faccio un esempio stupido perché mi è successo poco tempo fa, e a volte parlare delle esperienze personali è utile perché diciamo ci riporta alla realtà. Ci avanza un pezzo di carta catramata perché avevamo, non lo so, non ne avevamo un avanzo sul tetto, in un capannino o quant'altro, e cerchiamo di portarlo a una delle oasi ecologiche preposte dai gestori e dalle aziende per la raccolta dei rifiuti urbani. Quindi la portiamo con la nostra automobile ad una delle isole ecologiche, ce la vediamo rifiutata perché non tutti i rifiuti sono uguali, e quindi anche della carta catramata, proprio per la sua possibile il fatto che può prendere fuoco, per il modo in cui un determinato materiale reagisce a determinate condizioni fisiche, come ovviamente la temperatura, i cambi di temperatura o la vicinanza con altri materiali che non sappiamo esattamente quali potrebbero essere, non tutti i luoghi sono indicati per stoccare in grandi quantità uno o l'altro materiale. Quindi figuriamoci se sacconi, che se anche appunto chi non l'ha già visto non sa già di cosa si sta parlando, si vuole, è curioso e vuole andare a vedere, e scrive cava di Paterno su un motore di ricerca, vede le foto e vede in che modo questi rifiuti, questo polverino 500 mesh, era stato accatastato in maniera furfantesca e predatoria in questa cava di Paterno. Quindi appunto è tutto da dimostrare che non sia lesivo e problematico per la salute. Altro, per allargare la riflessione su questi temi, facciamo presente, non l'avevamo forse mai detto, che nei mesi scorsi era uscito e presentata insomma, era stata pubblicata il lavoro della commissione parlamentare d'inchiesta sui reati ambientali sul ciclo dei rifiuti, che mettono per l'appunto la Toscana al sesto posto nella classifica. Lo leggo proprio dalla pagina che riguarda la Toscana. Dice la commissione d'inchiesta: la Toscana è al sesto posto nella classifica per numero di reati ambientali accertati. Viene dopo Campania, Sicilia, Calabria, Puglia e Lazio, che sono le regioni storiche di origine delle mafie e delle ecomafie. Quindi la situazione è tutt'altro che rosea, e la vicenda del proscioglimento della cava di Paterno, vicenda che ovviamente si svolge in Toscana, avviene dentro questo contesto, nel contesto in cui una delle regioni che si credono sul panorama nazionale regioni nelle quali non possano succedere certe cose è invece al sesto posto. Quindi evidentemente i reati ambientali e le aziende e le filiere delle aziende collegate a questo smaltimento illegale dei rifiuti anche in Toscana hanno dei gangli ben radicati e precisi e molto distesi, e sono un tumore che continua a infestare le nostre società e le nostre vite. Ecco perché ne abbiamo parlato ed ecco perché continuiamo a credere che sia importante indicare responsabilità di questo genere piuttosto che imbarcarsi e partecipare continuamente a questa guerra fra poveri che si nutre anche proprio delle narrazioni tossiche che vorrebbero ricondurre il disagio delle nostre società ai piccoli reati, alle risse che si possono svolgere una sera su una panchina o in un giardinetto, fenomeni che sono riconducibili alla stramberia in sostanza della natura umana e che è inutile andare ad indagare in termini di scontro di civiltà o di difficoltà di convivenza e integrazione etnica o antropologica. Occupiamoci d'altro, occupiamoci di problemi ben più seri, che sono da ricondurre invece alle economie, al saccheggio che il capitalismo predatorio oggi fa dei nostri territori e al sacrificio che ci chiede, sacrificio non solo della nostra stabilità occupazionale o dei nostri redditi, ci chiede anche di sacrificare i nostri territori, di sacrificare la nostra salute affinché situazioni come queste possano far sì che le aziende trovino il terreno fertile per garantire i loro profitti. Questo in sostanza è il ragionamento che vorremmo contestare e distruggere e rovesciare. Cioè, noi non possiamo sacrificare i nostri territori e la nostra salute affinché le aziende possano fare soldi, perché chiaramente lo smaltimento dei rifiuti, se fatto correttamente, non perché le leggi non ci siano, le leggi ci sono, poi il problema è chi le fa rispettare, il problema è appunto rispettarle e farle rispettare. Per aggirare le leggi hanno studiato meccanismi molto utili e molto efficienti che permettono di risparmiare, non solo di risparmiare, ma addirittura nel lavoro della commissione parlamentare d'inchiesta si legge e si scopre, in fondo non si scopre niente di nuovo perché sono anche tutti temi e tutta materia da fiction televisive, da Suburra a Gomorra a Solo, come lavorano le ecomafie, cioè si fa finta di smaltire non con un semplice risparmio, ma con un doppio triplo risparmio, perché si classificano rifiuti pericolosi come rifiuti non pericolosi, quindi vengono smaltiti con tariffe inferiori di quelle a cui dovrebbero essere smaltite. Nello stesso tempo si prendono pure gli eco-incentivi, perché facciamo risultare le aziende come non produttrici di rifiuti pericolosi laddove potrebbero essere. Quindi ci sono ovviamente tutta una serie di problemi sui quali, ripeto, credo sia indispensabile porre l'attenzione, a rischio di farla un po' lunga come la sto facendo un po' lunga. Però volevo poi arrivare ad un articolo di cronaca che in qualche modo mi ha dato anche lo spunto per recuperare queste notizie della settimana precedente, e che è un articolo del 26 di giugno del Corriere Fiorentino che ricorda le celebrazioni per i 244 anni di che? Della Guardia di Finanza. La finanza festeggia e presenta il conto degli evasori totali. Leggo un po' l'articolo perché è curioso. L'igienista dentale che viaggia in Porsche e va in vacanza alle Maldive, ma risulta nulla tenente. È il titolare di Bed & Breakfast, che accoglie clienti da tutto il mondo attraverso i canali di Booking e Airbnb, ma è sconosciuto all'erario, a cui deve quasi 1 milione di euro. Sono solo alcuni dei 168 evasori totali che hanno nascosto redditi per 386 milioni di euro, scoperti dalla Guardia di Finanza, nella provincia di Firenze, tra gennaio 2017 e maggio del 2018, quindi neanche un anno. I dati sono stati illustrati ieri in occasione della celebrazione del 244esimo anniversario della fondazione del corpo, nella sede bla bla bla del comando, questo ci interessa, il giusto. Sul fronte del contrasto alla corruzione sono state denunciate 115 persone, stimato in 6 milioni e mezzo di euro il valore dei reati contestati. Inoltre, durante i controlli sulle gare d'appalto pubbliche in Toscana, le fiamme gialle hanno rilevato assegnazioni irregolari per 17 milioni di euro, su un totale di aggiudicazioni controllate del valore di 92 milioni di euro, quindi su 92 milioni 17. Per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata, dal gennaio 2017 la finanza ha effettuato indagini nei confronti di 592 persone e società collegate, che hanno portato al sequestro e alla confisca di 8 milioni di euro e a proposte di sequestro per 46 milioni. Qui mi scuso, ma proposte di sequestro non so bene cosa significhi, nello stesso tempo insomma è di non facile decifrazione una sintesi come questa del lavoro delle fiamme gialle, però sicuramente i numeri e il tipo di reati sono reati che ci portano a guardare a quella che è la situazione, e credo che emerga in modo evidente e chiaro, della nostra economia. Un'economia che sempre di più si avvale, nel tentativo continuo di garantire se non espandere i propri profitti, della illegalità. Un'illegalità che quindi in questo paese è fortemente legata ai poteri pubblici, alla politica, e non è, ripeto, un mistero perché è tutta materia di immaginario collettivo. Le fiction di maggiore successo in quest'Italia appunto sono state, ripeto, Gomorra, sta andando forte anche Suburra, e non è così, non per questo per parlare di cinema o di televisione, ma perché sono materia di immaginario collettivo, cioè sono cose che ormai tutti conosciamo e delle quali non dobbiamo, e alle quali non dobbiamo abituarci, ma rispetto alle quali dobbiamo trovare degli anticorpi. Anticorpi che non troveremo, convinzione ovviamente di tutti i nostri wombat all'interno della radio, che non troveremo affidandosi all'una o all'altra forza politica, ma che dobbiamo trovare in una nuova coscienza ambientale e sociale dei lavoratori, delle lavoratrici e degli abitanti dei nostri territori. Che si parli di ecomafie o che si parli di evasione fiscale, di lavoro nero, di caporalato o di tanti altri fenomeni di sottrazione privata rispetto al contesto collettivo nel quale ogni individuo opera. Questo è quello che volevo insomma affermare con forza attraverso le varie notizie che vi ho dato, che per riassumerle sono state: la voragine sul Lungarno Torrigiani, che è arrivata all'archiviazione del procedimento, la questione del proscioglimento da parte del Tribunale di Genova per il ritrovamento del polverino 500 mesh nella cava di Paterno Vaglia, e questa ultima chiosa che abbiamo fatto sulla notizia degli evasori totali pescati dalla Guardia di Finanza tra il 2017 e il 2018, e la commissione parlamentare d'inchiesta sui reati ambientali che è uscita appunto ad inizio di quest'anno. Vi lascio con un pezzo musicale per risentirci tra un po' in voce. We'll be right back. scusa. L'ennesimo processo abbia inizio, il sottoscritto è sotto accusa. Resto sveglio, anche se guardo un punto fisso, pronto per il viaggio di ritorno dall'abisso. Questo è il compromesso, io vivo se mi stresso, vittima carnefice, giudice di me stesso. Sarò io con i miei limiti, con i miei doveri, mi vedevi ridere contento fino a ieri. Ma è già passato un secolo, gli eventi si rincorrono, il tempo viene meno, quindi i conti non mi tornano. 25 anni e sono già papà, soggetto affetto da cronica responsabilità. Però tranquillo non lo sono mai stato, se va male so di mettere, se va bene il bene è saltato. Ma nel profondo so cosa voglio, fidarmi di me, l'ennesimo sbaglio contorto. Nella notte misteriosa, risorto nella rabbia come mia fedele sposa. Basta, ho parlato troppo adesso, basta, cercherò l'impatto, lo scontro. A stare a cura, cacu, fuoco, un siro, aca, e non si può morire a bottichina, mucchiere, embriaca. Sura sta terra, campu, aca, animali in mutamento, in continuo movimento. Il passo è svelto, forse è troppo lento, a tempo, nella giungla di cemento. Come un ragno che è lento, desse la sua tela, per alimentarsi deve uccidere ogni sera. Come insetti microscopici che innalzano calici, virus di sta specie di pianeta dei carnefici. Chianci, chianci, chi minchiacci, chianci, munnati l'aranci, chi tu cagantasti manci. Chianci, chianci, io ti munnetto, ti manci, chi tu camarasti, ti luto ancora chianci. Letto il ragno che in silenzio specchia nello stagno, la sua diffidenza e l'attrazione al suo guadagno. Lentamente il ragno la sua preda sta osservando, alla cena fugace piano si va avvicinando. Ad opera l'ingegno, l'astuzia e la sua forza, e spesso paga pegno la libellula commossa. Appariscente se l'è cercata, il ragno che non dà nell'occhio mose è mangiata, l'ha divorata. Questa è la vita, chi c'ha la grazia, la farfalla campana aggiornata. E invece il ragno che meno appare, non cura le sue vesti ma pensa solo a campare nella giungla di cemento. Basta, ho parlato troppo adesso, basta, cercherò l'impatto, lo scontro. Ma sarà la cura, cacu, fuoco, un sito, aca, e non si può punire a bottechina, mucchiere, embriaca. Sopra sta terra, canfuaca, animali in mutamento, in continuo movimento. Il passo è svelto, forse è troppo lento, a tempo, nella giungla di cemento. Come un cane che morde e non abbaia, ferito dalla vita ma curato da maniera e gaia. Il cielo cade, nuvole basse tipo nebbia, e dentro il sangue scorre rabbia. Gelido, brivido sale, troppo caldo, scavo camminando senza manco un nervo saldo. Fuori piove, ma è solo pioggia e non fa male, l'asfalto brucia, così riprendo la fiducia in me stesso. Con orgoglio annesso, ammesso e non concesso che ho represso l'animale che è me stesso. Perplesso, zero compromesso nel percorso, vada come vada, in ogni caso nessun rimorso. Chianci, chianci, chi minchiacci, chianci, munnati l'aranci, chi tu cagantasti mangi. Chianci, chianci, io ti munnetto, ti mangi, chi tu camerasti, te lo tornetto la chianci. Chianci, chianci, chi minchiacci, chianci, munnati l'aranci, chi tu cagantasti mangi. Chianci, chianci, io ti munnetto, ti mangi, chi tu camerasti, te lo tornetto la chianci. Basta, ho parlato troppo adesso, basta, cercherò l'impatto, lo scontro. A Saracura, cacu, fuoco, un zio, aca, e non si può punire a bottichina, mucchiere, embriaca. Sopra sta terra campuaca, animali in mutamento, in continuo movimento. Il passo è svelto, forse è troppo lento, a tempo, nella giungla di cemento. Eccoci di nuovo insieme in voce qui dalla redazione diffusa di Radio Wombat nello spazio della stampa rassegnata. 26 giugno del 2018, da Repubblica, aeroporti, corporation oltre il 62%. La società compra le quote della fondazione Cassa di Risparmio e dal 1 luglio esternalizza i servizi a terra. Che succede? Detto più o meno in breve, la Fondazione Cassa di Risparmio vende le sue azioni dentro Toscana Aeroporti e Corporación America, sezione Italia, azionista di controllo della società del polo aeroportuale Firenze-Pisa, compra e si ingrandisce. La fondazione vende il suo 6,58% di capitale, equivalente a 1.225.275 azioni da 16,50 euro l'una per un totale di 20,2 milioni di euro. A questo punto Corporazione America detiene passa dal 55,7% di azioni al 62,28% del capitale azionario di Toscana Aeroporti. Questo è il dato. Dato al quale, oltre ad essere già interessante di per sé, perché mostra la strategia aziendale della multinazionale Corporación America guidata dall'argentino Eduardo Eurnekian, che è quella appunto di acquisire sempre più potere, che chiaramente si trasforma in potere di orientamento, di direzione della società Toscana Aeroporti, ci porta poi a bomba sulla questione del lavoro, perché insieme all'espansione e al raggiunto 62% di capitale azionario da parte di Corporación America corrisponde il problema e la vertenza che i lavoratori degli aeroporti di Toscana e di Pisa, di Firenze e di Pisa, hanno aperto da diversi mesi con Toscana Aeroporti. Una vertenza riguardante l'esternalizzazione del comparto bagagli e che, leggendolo direttamente dall'articolo, dice questo: dopo tante discussioni con i sindacati, conclude, l'esternalizzazione del handling, cioè dei servizi a terra, o meglio, separa dal 1 luglio i compiti di gestione delle infrastrutture aeroportuali da quelli delle operazioni di handling, come impone ormai la normativa europea e come gli altri aeroporti italiani hanno già fatto. Dal 1 luglio nasce, come cessione di ramo d'azienda, la nuova società Toscana Aeroporti Handling SRL, controllata al 100% dalla casa madre, ma autonoma e indipendente, e con tutta probabilità sarà presto venduta a una società specializzata nell'handling, portandosi dietro, tra Pisa e Firenze, 558 lavoratori, assai preoccupati. Abbiamo chiesto garanzie ma non abbiamo ricevuto niente, protesta la responsabile regionale del trasporto aereo della CGIL Monica Santucci, dopo una riunione con l'azienda ieri a Pisa. Spiega, abbiamo chiesto a Toscana Aeroporti di non uscire totalmente dalla nuova società quando sarà venduta e di inserire nell'atto di vendita garanzie per i lavoratori. Che hanno risposto? Niente. Ecco, questa è la questione. Aumenta la concentrazione di capitale, nello stesso tempo esternalizzazioni, precarietà e appalti e subappalti al ribasso sono la legge del mercato. Niente di cui stupirsi, semplicemente e solo altre conferme di quello che da tempo diciamo, e cioè che la redistribuzione della ricchezza all'interno delle aziende non passa necessariamente, e anzi continua a non passare, neanche dal buon andamento degli utili e dei bilanci aziendali. Abbiamo un comparto come quello aeroportuale che ha annuncia e ha previsioni di crescita impressionanti e per altri aspetti, come spesso abbiamo detto, preoccupanti, eppure neanche all'interno di un comparto come questo, che si permette il lusso ovviamente rispetto alla vicenda fiorentina di pensare ad un ampliamento, ad un nuovo aeroporto di tipo intercontinentale e ad un polo del aeroportuale del centro come quello che si potrebbe configurare allargando Firenze e pur mantenendo Pisa, e nonostante questo la precarietà e gli appalti al ribasso continuano ad essere la legge del mercato ed il destino dei lavoratori. Un argomento, crediamo, importante e in più per tutti coloro che dentro la battaglia contro la costruzione dell'aeroporto, del nuovo aeroporto, del nuovo grande aeroporto di Firenze e di Peretola, vedono un passaggio sia per la difesa dell'ambiente e della salute, ma anche un passaggio per la conquista di nuovi diritti e nuove possibilità occupazionali. Non è attraverso queste economie che riusciremo a guadagnarsi dei posti di lavoro e una migliore, più equa distribuzione della ricchezza, ma sarà solo attraverso la messa in discussione dei rapporti di produzione capitalistici che caratterizzano appunto le nostre società e che negli anni del neoliberismo si sono fatti tra l'altro sempre più aggressivi, aumentando in modo esponenziale la forbice dei redditi tra i direttori, i dirigenti, le figure intermedie o comunque in qualche modo legate alle dirigenze e coloro che invece stanno nei piani più bassi delle gerarchie e delle scale piramidali delle grandi aziende. Questo è quello che emerge dall'analisi di molti fatturati, di molti andamenti aziendali, compreso quello di Toscana Aeroporti. Altra notizia di cui non possiamo per forza occuparci in qualche modo, la questione della manifestazione contro il razzismo lanciata da Nardella e Rossi, che il 27, mercoledì 27 giugno è andata, diciamo, in scena in piazza Ognissanti. Manifestazione contro il razzismo che è seguita alla vicenda politica che si è sviluppata intorno alla morte di Duccio Dini all'Isolotto. Morte per responsabilità di un incidente, di una condotta automobilistica assolutamente pirata e criminale da parte di due persone, di cui uno più giovane e uno più anziano, di origine rom, alla quale poi è seguita tutta una bagarre politica di un certo rilievo per il nostro territorio e per il quartiere dell'Isolotto, attraverso una prima presa di posizione ed un presidio fatto da Donzelli e Fratelli d'Italia, che cavalcando l'onda della rabbia e appunto dell'avvenuto incidente che poi ha portato alla morte di Duccio, hanno tentato di marciare verso il campo rom del Poderaccio al suono, diciamo, dello slogan e seguendo la parola d'ordine del "questa non è casa vostra, questi sono i frutti della vostra illegalità, della vostra della vostra presenza in Italia" e bla bla bla. Insomma, questo è il quadro a cui la destra cittadina ha dato un po' spago, cioè non un po' spago, ha dato vita a questo quadro a tinte veramente nere e tragiche. Ha risposto, o sta tentando di rispondere, anche in modo ovviamente propagandistico e elettoralistico, sta tentando di rispondere una cordata che su questo argomento si è formata tra Rossi e Nardella, che hanno tentato questa manifestazione del 27 giugno. Credo che non si possa non parlarne, non tanto per il rilievo che ha avuto, anche perché credo forse il dato più interessante è quello numerico. I giornali hanno parlato di 500, 600, 700 persone. A vedere le foto, perché non ci siamo andati di persona, perché non era certamente una piazza che ci riguardava, ma a vedere le foto questi numeri sono assolutamente sovrastimati e politicamente pilotati. Non ci sembra assolutamente che i numeri fossero quelli, ma anche ammesso che si parlasse di 500 o 600 persone, teniamo conto che si sta parlando di una manifestazione costruita dal presidente, dall'attuale in carica presidente della regione, dal sindaco di Firenze, e rivolta a livello regionale e in qualche modo nazionale, addirittura sulla nazione, addirittura è fuori luogo, però è per dire che era evidente la loro presenza. Sulla nazione la foto era quella dello striscione della comunità Rom e Sinti di Milano. Quindi la manifestazione era aperta e partecipata da varie delegazioni della Toscana e del resto d'Italia, e i numeri sono stati assolutamente risibili, soprattutto risibili se paragonati a un altro momento di vitalità di piazza sui temi del razzismo e dell'antirazzismo, che è stata invece la manifestazione con cui Firenze e la Toscana risposero non solo all'omicidio di Idi Diene, il signore senegalese freddato a colpi di pistola sul ponte Vespucci da l'abitante di San Frediano, non solo risposero a questa situazione di omicidio volontario, ma la Toscana e Firenze risposero con una manifestazione davvero importante, davvero imponente anche nei numeri, che da piazza appunto Santa Maria, concentratasi in piazza Santa Maria Novella, risposero anche all'atteggiamento provocatorio e all'atteggiamento razzista del sindaco di Firenze, che non aveva sulle prime dichiarato il lutto cittadino, che aveva dato più importanza alle fioriere che nei momenti a caldo dopo l'omicidio di Idi, alcuni e alcune esponenti, ragazzi, giovani, donne della comunità senegalese avevano rotto in un corteo selvaggio che dal Ponte Vespucci era arrivato fino al centro di Firenze, passando nel centro di Firenze era arrivato fino al Palazzo Vecchio, chiedendo non si sa bene cosa, insomma una manifestazione non diciamo in cui la violenza di piazza non era un elemento che tentava la pratica di alcuni obiettivi, ma era appunto una risposta di rabbia e di paura della comunità senegalese, che per la seconda volta si vedeva oggetto di ritorsioni e di omicidio volontario, prima con la strage di piazza Dalmazia appunto nel 2013 e poi nuovamente nel 2018 sul Ponte Vespucci. E a questo il sindaco di Firenze aveva avuto una reazione veramente pesante, condannando la loro reazione, dando avendo la presunzione di dare lezioni di legalità, e alla prova dei fatti, quando si è trattato di andare in piazza contro il razzismo, Nardella e Rossi sostanzialmente si sono portati dietro i loro. Più che altro c'erano dei rappresentanti delle comunità andando a confermare un paradigma della gestione dei migranti, che niente o pochissimo ha ormai a che vedere con la vita dei migranti e degli stranieri in questi paesi, stranieri che sono stati vessati e sono ancora sottoposti a legislazioni e una inferiorizzazione non solo sociale attraverso gli stereotipi e il ritorno e la riscoperta da parte del popolo italiano di tanti stereotipi davvero orrendi e di matrice e origine coloniale, ma anche a una inferiorizzazione di tipo istituzionale. Pensiamo ai permessi di soggiorno a punti, pensiamo a tutta la legislazione sull'acquisizione dei diritti di cittadinanza, al diritto di voto, tutto quello che accade e si gioca sulla vita dei migranti. Non ultima la questione del lavoro, nella quale gli stranieri, soprattutto gli strati tra virgolette più bassi e più precari rispetto alla situazione di precarietà, rispetto ai diritti e alla cittadinanza, sono poi coloro che rappresentano una vera e propria colonia interna utile a svolgere i lavori a più basso costo, soprattutto nei contesti di minore tutela e di minore visibilità, quali per esempio il caporalato agricolo. Questa è un po' la situazione. E la piazza fiorentina di Piazza Ognissanti è stata una piazza del tutto istituzionale, che a differenza della risposta che Firenze e la Toscana riuscirono a dare all'omicidio di Idi Diene, è stata una piazza vuota e ricolma e ricca solo di retorica e spot elettorali. Spot elettorali che ci sembra di poter dire hanno tra l'altro sempre meno presa. Ancora con altre notizie, per chiudere ricordiamoci che il 27, mercoledì 27 di giugno, non è stato solo il giorno della piazza di Nardella e Rossi contro il razzismo di cui abbiamo orora parlato, ma è stata anche la data della manifestazione Mano nella Mano, lanciata dal presidio, dalle mamme non inceneritore, dai comitati e le associazioni che in questi anni si sono battute e continuano a battersi contro le nocività nella piana, contro quindi l'inceneritore di Case Passerini Firenze, in generale tutti gli impianti di incenerimento di rifiuti, e contro la costruzione dell'aeroporto. Manifestazione che aveva il senso di dare un messaggio simbolico, cioè quello di corpi e persone che con le proprie mani intrecciate, quindi attraverso i loro rapporti di solidarietà e complicità, sono disposte a insomma a difendere la piana e il parco, cosa che chiaramente va di pari passo con quello che sta succedendo su tutto il quadrante nord-ovest. In questa settimana si sono sprecati gli articoli proprio perché c'è stata l'approvazione da parte della giunta Nardella della variante di Castello. Lo ripetiamo, vicenda sulla quale ci siamo dedicati, abbiamo dedicato spazio più volte e alla quale necessariamente dovremo dedicarne ancora. Lo ricordiamo in breve quello che sta succedendo. Praticamente nel progetto di riassetto complessivo di tutto il quadrante nord-ovest di Firenze e dell'area metropolitana, coinvolgendo quindi anche il comune di Sesto Fiorentino, in parte Campi, in parte Signa, in parte Prato, per tutta una serie di fenomeni annessi e connessi all'aeroporto, si sta programmando questo tipo di pacchetto. L'amministrazione Nardella vorrebbe costruire la Cittadella Viola, che è stadio all'interno di quello che oggi è lo spazio Mercafir di Novoli, e quindi spostare la Mercafir costruendola su nuovi edifici, quella che viene chiamata da anni l'area di Castello, di proprietà della Unipol SAI, che dovrebbe passare a Toscana Aeroporti, e liberando così lo spazio per la costruzione della Cittadella Viola dentro Novoli, costruendo la Mercafir nell'area di Castello insieme ad altre funzioni urbane, quindi si parla di ostelli di lusso, si parla di alberghi, si parla di centri direzionali, si realizza anche l'aeroporto intercontinentale di Firenze Peretola. Questo è il progetto di massima di riassetto dell'area nord-ovest. Quindi quando si parla di parco della piana non si parla solo di contrapposizione all'aeroporto, ma si parla di difesa del territorio da tutta una serie di operazioni speculative e di cementificazione che vengono messe in moto intorno alla questione dello stadio. Lo stadio si va configurando sempre di più come uno specchietto per le allodole, chiaramente facendo leva sul capitale simbolico della Fiorentina, della squadra, dell'amore della città per la propria squadra, e quindi anche sul tifo e sull'appartenenza calcistica. Chiaramente lo stadio rappresenta uno specchietto per l'allodole perché va in realtà a mettere in moto un'operazione urbana di ampia portata e dalle proporzioni veramente bibliche. Non è peregrino parlare di Firenze 2, perché nel momento in cui dovessero aprire cantiere e cominciare con le costruzioni, con le colate di cemento, quello che oggi è una piccola discontinuità ancora in qualche modo potenzialmente agricola e ancora potenzialmente verde, quindi tutti i terreni sia dell'area Unipol, quindi cosiddetta area di Castello, sia del Parco della Piana, che in qualche modo creano questa discontinuità verde nell'area metropolitana fiorentina, andrebbero a saldarsi creando un tentacolo e un mostro tentacolare di tipo urbano e metropolitano che va con continuità edilizia da Prato fino a Firenze Sud. Questo è quindi il quadro del disastro. In questo quadro del disastro una piccola variabile di opposizione continuano a rappresentarla i comitati, che continuano a dire no al nuovo aeroporto. Non solo dicono no al nuovo aeroporto, dicono con questo sì alla difesa del territorio da tutta questa serie di speculazioni, dicono sì al Parco della Piana, un parco che sia agricolo in parte, ma nello stesso tempo anche fruibile ad altri tipi di frequentazioni ed usi da parte della cittadinanza e degli abitanti, sì anche alla riconversione dell'attuale aeroporto di Peretola, che già di per sé è un problema e funziona con deroghe e chiudendo gli occhi rispetto a prescrizioni e appunto regolamenti che dovrebbero riguardare la sicurezza e la salute dei cittadini da anni almeno con tranquillità possiamo dire affermarlo dal 2003 ad oggi. Quindi rispetto a tutto questo c'è stata la manifestazione del 27 di giugno in serata, qualche centinaio di persone, senza esagerare nei numeri, hanno partecipato a questa sorta di catena umana che si è disposta lungo la via dello Smannoro, concentrandosi al polo di Sesto, per poi andare a finire con una serata di socialità contro le grandi opere, contro le nocività, dentro il presidio, non inceneritore, non aeroporto di via dello Smannoro. Per chi gli interessasse un po' approfondire o comunque sentire anche un'altra voce su questi temi, una delle nostre trasmissioni, che è Passaggi a Nord-Ovest, nella settimana precedente a questa ha intervistato Sebastiano, che è un altro dei protagonisti di queste lotte contro le nocività, contro l'inceneritore e contro l'aeroporto, che da anni animano i nostri territori. Quindi ascoltatelo, e appunto, perché più voci e più teste raccontando le stesse cose danno un quadro, credo, più esauriente, e spiegano meglio tutta una serie di passaggi che stanno avvenendo e di cui non è facile a volte neanche rendere conto ai nostri amici, alle nostre amiche ascoltatori e ascoltatrici, con puntualità e precisione. Eppure continuano a rappresentare un'esigenza molto forte da parte nostra, da parte mia, da parte di tutta la radio, quella di far comprendere le ricadute sistemiche della possibilità che su questa porzione di territori a nord-ovest della città di Firenze si possano addensare e condensare e alla fine realizzare tutte le operazioni che la Giunta Nardella va descrivendo. Insomma, in settimana c'è stata appunto l'approvazione di questa variante urbanistica che per coerenza con la solita arroganza politica e amministrativa non è passata neanche dal Consiglio Comunale, ma si è limitati a discuterla, a farsela e firmarsela all'interno della Giunta Comunale stessa. Altra variante in modo molto leggero viene fatta dal Comune di Firenze è quella per la manifattura tabacchi, del cui progetto di trasformazione magari parleremo nelle puntate precedenti, tentiamo e manteniamo un livello di attenzione, tenendo anche conto dell'esistenza di uno storico comitato per la manifattura tabacchi e vedendo se sarà possibile anche attraverso di loro fare il punto un po' della situazione. Per questa settimana credo che vi ho abbastanza stressato e con calore, proprio il caso di dirlo, sì, con calore vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, ricordandovi solamente che ci sentite il lunedì in diretta alle 15.30. Il mercoledì alle 23.59, che poi sono la mezzanotte, e il giovedì mattina alle 8.30. Queste sono le nuove fasce di replica, o se no, come sempre, il podcast da mettere nei vostri MP3 a risparmio energetico e da ascoltare obbligatoriamente in bicicletta. Un saluto, pugni chiusi, ciao, alla prossima settimana.